Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, caro Oscar, alle 8:21 minuti in questo venerdì. Questo 25 novembre da te purtroppo utilizzato per calcare il tallone sui poveri interisti. Ma cosa ridi? Guarda che poi dopo ti si ride. Si è ma io rido perché da torinista io lo sai che non reagisco a nessun tipo di provocazione. La storia ci ha abituato a essere stoici. Hanno detto Torino. Presterò agli amici interisti l'abbonamento a teatro del mercoledì. Che avevo fatto. Ma sei proprio feroce, però. Quest'anno non lo uso più e lo do a loro. Sei proprio feroce. Avevi iniziato l'anno dicendo: ma il Milan, l'ottavo posto, settimo posto. E adesso va bene, dai. Allora, oggi è Santa Caterina d'Alessandria, una grandissima santa, nel senso che è molto popolare ai quattro angoli della cristianità. È una martire egiziana, rifiutò di sposare il governatore romano Massimino d'Aia e pagò con la morte il fatto che il governatore le aveva detto: prima mi sposi, secondo ti converti, cioè fai questo sacrificio all'imperatore. E invece Santa Caterina disse di no. E sull'onda di questa santa popolarissima, prima in Egitto ma poi in tutta la cristianità, si festeggia anche la moglie di un altro imperatore romano che si chiama Basilissa, la moglie di Massenzio, quello che fu sconfitto da Costantino nella famosa battaglia in Oxigno Vinces, che anche lei rifiutò, essendo cristiana. Massenzio non piaceva mica tanto a sta cosa, e quindi la moglie di Massenzio divenne martire. Auguri anche a chi si chiama, perché sono altri santi del giorno: Marcolino, Maurino e Mercurio. San Mercurio. Cosa ricordare? Lino. Per quelli ho messo in fila per questo qua. Oggi pensa che Prodi nel 1978 diventa ministro dell'industria. A me certe volte fa un po' impressione come i politici siano di lunga durata. Era in un governo Andreotti. E tra le altre cose è la giornata internazionale contro la violenza sulla donna, sì. E questo lo hai già sottolineato nella rassegna stampa, ed è il compleanno di un economista americano che per me è un idolo, io ne sono un grande ammiratore, Martin Feldstein. So che hai più, dirà poco il suo nome, ma invece è un grandissimo economista. Ma tra l'altro hai visto che la Boldrini ha deciso di pubblicare tutti gli insulti che riceve, con tanto di nomi e cognomi di chi li manda questi insulti. Adesso qui è da decidere se questa decisione sia un disincentivo o un incentivo a mandargliene di più, perché Con attenzione, nome e cognome, non penso che una persona si trova così spiattellata. Tu lo sai che sui social però oramai la gara all'insulto è diventata quindi non lo so, a volte uno potrebbe pensare così di disincentivo, non è detto. No, magari li vuole denunciare, diciamo, semplicemente, no? li vuole esibire come qualcosa che non si fa. Comunque, allora, da dove si comincia? Caro Oscar, tu ti ricordi che di recente avevamo avuto una chiamata di uno statale dipendente pubblico, attenzione, che aveva detto: io misurerò il mio voto al referendum in base a quanto sarà l'aumento. E vuoi forse ipotizzare che a Palazzo Chigi per questo che ieri abbiamo fatto la cifra, ragazzi, 85 euro per voi, e per voi vuoi forse ipotizzare? No, però è interessante perché ci sono 3 milioni di statali in Italia, correggimi tu, 3 milioni e 2. Ci sono gli stipendi bloccati, gli aumenti da anni dai tempi dei Tremonti. È un problema serio per molti statali. Serissimo. Ora c'è questa cifra, 85 euro lordi al mese di ipotesi di aumento. E ci sono giornali, quindi il Giorno, recupero zero per gli anni persi. Ma guarda che il Giorno, per esempio, lo mette così in prima pagina: statali aumento elettorale, proprio in maniera. Ma guarda che cattivi! Ma perché pensar male? Vabbè, ma vuoi forse ipotizzare che le trasmissioni serali con i malati di diabete e di cancro siano legati forse all'interesse referendario? Ma perché fare questo tipo di illazioni? Come mai? Dove vogliamo arrivare, cari ascoltatori? Non so, però amici, dipendenti pubblici, chiamateci all'800 24 0024. Lo legate a questo oppure lo legate a una cosa giusta che vi attende da anni e che finalmente è arrivata adesso, ma poteva arrivare tra un mese, poteva arrivare tre mesi fa, poteva arrivare, è arrivata una settimana dalle elezioni e va bene. Meglio, dici, che mai. Meglio che mai. No, adesso, proprio giornalistico, bisogna naturalmente essere completi. Naturalmente i sindacati hanno rilanciato dicendo: no, cari miei, ci vuole ben altro, anni e anni non abbiamo visto niente, quindi un minimo di recupero ci vuole, 85 euro lordi non basta, eccetera eccetera, si vedrà. Però insomma, lo avete capito tutti che il 4 dicembre è diventata, cioè, per esempio, la crisi all'Italia non può dire che c'ha esuberi, non sappiamo altri esuberi in età, 1000, 2000, perché il governo gli ha detto lo dite dopo. E così via, è tutto paralizzato. Qualcuno richiede l'interpretazione, no? Poco fa dei talk show serali, no, scusa, ma però c'è un titolo cattivissimo che io non condivido, un titolo spietato che denuncia proprio lo spirito oramai troppo partigiano, l'eccesso di aggressività, però efficace dal punto di vista dell'ironia giornalistica sul fatto che l'hai visto a pagina 2, sì, il titolo: manovra vendo tutto, Renzi dà via il negozio pur di comprarsi il sì. Questo è ovviamente un titolo da censurare per il suo spirito troppo acre, però è ben fatto giornalisticamente. La manovra vendo tutto il negozio, quando uno proprio svende il negozio, vabbè. Comunque, chiamateci insomma per questo tema degli statali. A proposito di aumenti dello stipendio, caro Oscar, abbiamo colto questa notizia. Ci sono belle novità in arrivo? No, abbiamo colto questa notizia per quel che riguarda invece alcuni statali, in questo caso i tanto, si può dire anche vituperati, criticati, forestali siciliani. Che invece oggi bisogna difendere in vista del referendum, immagino. Però pare, questo racconta almeno il giornale di Sicilia, racconta i giornali, che ci sono forestali che avrebbero incassato in Sicilia indennità di reperibilità anche quando nevicava, per cui il rischio di incendio era abbastanza... Però quando nevica le piante prendono freddo, bisogna coprirle, i forestali ci vogliono. Esatto. Ma non ipotizzare... Oppure che prendevano il ruolo di capo operaio pur non essendo capo operaio. Ma bisogna promuoverla la gente, ma che cos'è? ma stamattina ti sei svegliato storto, dovresti essere allegro per l'Inter, mi fai delle battute, mi fai... Insomma, il risultato è che qualcuno avrebbe preso tra i forestali €500.000 di stipendi e che non dovevano prendere. Ma bene, un incentivo ad aumentare il reddito pro capite, ma questo, ragazzi, i governi pubblici fanno bene, come vedete, santo Dio. Non lo so, però guarda che abituiamoci che forse questo è il tono con cui bisogna dare le notizie. No, vogliamo salutare in questo clima che un po' è goliardico, ma un po' no, perché la notizia un po' ci ha fatto arrabbiare. Beh, dobbiamo confessarlo. L'assessore al territorio della regione Sicilia, assessore da cui dipendono anche i forestali, Maurizio Croce. Buongiorno, assessore. Buongiorno. Grazie di essere qui. Buongiorno. Allora, è davvero così? Cioè che si sono presi dei soldi che non spettavano queste persone? Guardi, questo ancora con assoluta certezza purtroppo non glielo posso dire, non lo sappiamo, non è che non glielo posso dire, non lo sappiamo perché lo sappiamo. Proprio ieri c'è stato un incontro con i sindacati del Corpo Forestale, sono state avviate tutte le verifiche su tutti i dipartimenti provinciali per capire se c'è stata una scorretta applicazione dell'indennità di reperibilità. Questo è il dubbio che viene. Come mai lo scoprite eventualmente in una riunione con i sindacati? No, dovreste saperlo prima. Sì, no, noi l'avevamo già diciamo paventata questa possibilità, tant'è che il Corpo Forestale, la direzione regionale, aveva fatto una nota a tutti i dipartimenti provinciali. Ieri si è stabilita la procedura per verificare con assoluta certezza che ci sia stata questa applicazione scorretta e quindi andare al recupero delle somme. Quindi è paventata, cioè voi il dubbio ce l'avete, a ragione, è un dubbio quantificato? Assolutamente sì, non l'avremmo scritto. È chiaro, quindi il dubbio che si siano presi dei soldi c'è, è forte. E i sindacati che dicono? No, ovviamente. No, i sindacati dicono no, ovviamente, difendono i lavoratori per definizione anche, giusto? Quindi è chiaro che ci vanno molto con i piedi di piombo e quindi chiedono che venga fatta una verifica molto puntuale e molto accurata. E poi dovessero essere arrivati più soldi, che fate? Glieli chiedete indietro? Assolutamente sì. E li daranno? Per forza. Saranno obbligati a farlo, se no si rischiano anche azioni penali. Questo è evidente, andremo fino in fondo su questa storia, nel senso che se c'è stata questa scorretta applicazione è chiaro che i soldi devono essere per forza reintegrati. Ma come funziona secondo gli accordi, quindi lo status giuridico di questo particolare tipo di dipendente nella vostra regione, nel senso che oltre al recupero, sempre nel caso in cui fosse comprovato che ci siano state degli illeciti, oltre al recupero scattano in quel caso sanzioni disciplinari di che tipo e fino a che livello, oppure no, o basta il recupero? Ma guardi, in questa fase, se il recupero viene ripreso al 100%, si riferma al recupero delle somme, non si va oltre. È chiaro che se, come diceva lei prima, qualcuno rifiuta di risarcire la regione del danno, ancora a quel punto scattano le azioni amministrative e anche penali. Però in questa fase è solo una fase di, diciamo, di recupero delle somme. Mi scusa, assessore Croce, ma voi come avete paventato questa possibilità? Cioè, vi siete accorti che erano irreperibilità anche se nevicava? Cioè, è abbastanza veniva facile riconosciuta un'indennità? No, sì, è chiaro. Abbastanza facile capire se un capo operaio, che non è capo operaio, prende lo stipendio da capo operaio. Cioè, sì, però siccome i singoli operai vengono poi pagati dai singoli dipartimenti provinciali, la parte centrale è chiaro che poi va a verificare le uscite dei singoli dipartimenti provinciali quando si fa la verifica, diciamo, complessiva, e quindi normalmente ogni mese noi non abbiamo contezza di quello che avviene nei singoli dipartimenti provinciali. Beh, ci sarà un responsabile del dipartimento provinciale che saprà se ha pagato un capo operaio che non è capo operaio con lo stipendio da capo operaio. No, ma qui non è un problema di qualifiche, non è un problema se ha pagato un impiegato come capo operaio. Qui è un problema di erogazione di indennità di reperibilità, che è una cosa, diciamo, diversa rispetto alla classifica, alla categoria del corpo forestale. Sì. Cioè, è stata riconosciuta a questi operai, sembrerebbe che sia stata riconosciuta a questi operai un'indennità di reperibilità, come diceva lei prima, eravamo fuori dalla campagna d'incendio. No, ma dico, c'è anche, almeno racconto ai giornali, di alcuni che avrebbero incassato il 10% in più legato al ruolo di capo operaio pur non essendolo. Questo dovrebbe essere abbastanza verificabile. A me risulta che c'è una scorretta applicazione dell'indennità di reperibilità, questo sì. In ogni caso, assessore, vedremo quando si sapranno dei risultati. Ma io penso che già nei primi giorni del prossimo mese avremo già le risposte da parte di tutti i dipartimenti provinciali, quindi settimana è una cosa abbastanza prossima. Rapida, una verifica amministrativa abbastanza rapida, sì, assolutamente sì. Settimana prossima, va bene. A questo punto ascolteremo, vedremo. Intanto la ringraziamo, assessore Maurizio Croce, assessore al territorio della Regione Sicilia. Io sottolineo che ieri, quando cercavamo l'ospite seguendo questa vicenda, non potevamo commentare che a volte ci sono gli scherzi del tutto casuali, perché il dirigente che si è reso conto di questo rischio, anche a me ha fatto un po' sorridere. No, si chiama Antonio Viavattene. Viavattene, sì, sì. Dovrebbe dire dirigente qualcosa Antonio forse sul Viavattene. Fatto. Vabbè. Ieri volevo ricordare a tutti, cari dirigenti pubblici, il governo si è ricordato anche di voi, perché il nuovo testo ricorretto integralmente del decreto Madia della riforma del PA sulla riforma della dirigenza accoglie buona parte dei motivi per cui voi avevate storto il muso di fronte, è troppo duro darvi un ruolo di 4 anni con il rischio della mobilità, di andare a casa, eccetera eccetera, ma il governo ieri, non c'entra niente il referendum, vi ha dato molto ragione su questo. Accogliamo tutte le obiezioni di chi dice: ma scusate, ma chi elargisce gli stipendi, appunto, ai dipartimenti provinciali, ma faranno dei controlli o no? Vedremo adesso. Ci sono dei dirigenti anche preposti a questo per i forestali e si vuole appurare. Beh, però dall'assessore si capisce che non è detto che centralmente la regione sappia cosa avviene a livello provinciale. Di dipartimento provinciale si saprà. Resto, sai, nella regione autonomia speciale ognuno è autonomo dall'altro. Si capirà che io sono un po' ironico oggi oppure sì, no, non lo so, me lo chiedo, certo. Cari ascoltatori. No, perché molti confondono poi l'ironia col dire un pizzico di ironia ci vuole. Se no i teisti come fanno a sopravvivere? Cosimo ci chiama da Brindisi. Buongiorno Cosimo. Buongiorno a voi. Allora, io sono uno statale, ho 63 anni. Non so quando andrò in pensione, perché ogni tanto cambiano una legge. Il bello della vita è l'incertezza. Abbia fede. Caro no, Cosimo. Per carità, ma io non sono di quelli che aspetta la pensione come la mano dal cielo. Io lavoro tranquillamente. Non come la mano dal cielo, come qualcosa che le spetta a un certo punto della vita. A un certo punto mi aspetta, però non sto lì a contare i giorni. Allora, io volevo dire che il mio voto non vale gli 85 euro di Renzi, certamente, no? Perché poi tolte le tasse e tutto quanto ci andiamo a 50. Sì. O no? Sì. Leva le tasse, leva quello, leva quell'altro, vale 50 euro. Se teniamo presente che noi, in base al blocco degli stipendi, che risale ai tempi di Tremonti, come ricordava giustamente Giannino, ci abbiamo rimesso qualche migliaio di euro, 3-4 mila euro, e secondo lui mi compra con 85 euro che levate le tasse diventano 50? Ma stiamo scherzando veramente? Ma magari non abbiamo proprio dignità allora? Ah, magari adesso mi compra, perché lei quindi ha di questa idea che è stato un annuncio elettorale, magari, magari non è così, però lei invece pensa è stato fatto adesso. Io non mi confesso. Non ho capito. Mi confesso, ho detto un'eresia allora. Scusatemi, se secondo voi cos'è? Non è un annuncio elettorale? Ah, no, no, beh, infatti questo alcuni giornali... Noi, lo, no, noi abbiamo semplicemente detto che alcuni cattivoni lo pensano. È un'ipotesi che molti giornali mettono addirittura in prima pagina. Lei comunque dice anche se fosse così non è certo una cifra per quello che ho perso per mancati aumenti in questi anni che mi può in qualche modo convincere. 85 lordi. Va bene, Cosimo, la ringraziamo. Roberto da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Allora, anche lei è dipendente pubblico, mi segnalano. Sì, io sono un insegnante e mi sto recando al lavoro in questo momento. Benissimo, a scuola. E niente, io è inutile dire come la penso, ovviamente anch'io credo sia uno spot elettorale, ma voglio dire, secondo me è soltanto la punta dell'iceberg questo. Io più che altro vorrei, sono un po', ultimamente sono un po' amareggiato dal fatto che nell'opinione pubblica si sta sviluppando un'opinione secondo me pericolosa, e cioè che noi dipendenti pubblici siamo tutti privilegiati, noi siamo trattati meglio di quelli che lavorano nelle aziende private. Ecco, io se posso vorrei semplicemente far presente che, per dire, io lo stipendio di settembre, io sono un precario perché sì, ovviamente Non sto lì a raccontare la mia storia. Sono stato uno di quelli truffati da Renzi, perché ha fatto una riforma della scuola che ha cancellato di colpo tutta una categoria di docenti abilitati dallo Stato dietro pagamento. E io per abilitarmi sono dovuto dimettere dal lavoro che facevo prima. Insomma, conclusione. Quanto è lo stipendio? Non ho capito. Quant'è lo stipendio? Ci diceva quello, lo stipendio? Sì, no, vi volevo dire che a parte che lo stipendio è uno stipendio di un operaio, perché io prendo attualmente 1400 euro, io sono sicuro che se io non avessi studiato, perché io ho comunque tre lauree più l'abilitazione, io sono sicuro che se avessi fatto anzianità in un'azienda privata ne prendevo molto di più. Ma a parte questo, volevo soltanto segnalare il fatto che, per dire, lo stipendio di settembre io l'ho preso ieri, l'ho riscosso ieri, dopo due mesi. Il TFR dell'anno scorso. Vabbè, però Roberto, non ci faccia la sua storia, perché stiamo facendo la sua storia anche fiscale quasi. La sua posizione è molto critica. Ecco, posizione è che secondo me io non so come si faccia ancora veramente a dare credito a chi comunque. È veramente plateale il fatto. Va bene, che Roberto, suggerisco adesso che entra in classe un po' più di sintesi. Vabbè, magari sintesi l'emozione a volte, soprattutto anche il dolore di dover dire, capito? Cioè, perché è tanto studiato. Poi il governo, ripeto, aveva detto mettiamo in ruolo tutti, poi non è stato possibile. Io do atto che il governo ne ha messo in ruolo troppi per i miei gusti. Il problema è che abbiamo accumulato decenni e decenni di una pratica vergognosa ai danni di centinaia di migliaia di precari nella pubblica amministrazione, ma in particolare nella scuola. Questo va detto, nel senso che le responsabilità di Renzi noi certo non ci tiriamo mai indietro a negarle, ma in questo caso aveva ereditato un disastro pluridecennale di responsabilità della politica e di mancati aumenti, quindi prima o poi, quando uno come dire annuncia degli aumenti, è chiaro che però la io mi candido poi a un Oscar Goes, a una vicenda che da ieri mi fa piegare in due dopo la pubblicità, però così ce la tieni in sospeso. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, caro Oscar, tuo Oscar. Io ieri ancora non riesco a. Perché ci sono delle circostanze nelle quali la cronaca italiana, l'intreccio di questa fantastica capacità storicamente evolutasi fino a livelli apicali di mettere insieme fantasia, invenzione, simulazione di simulazione, provoca dei cortocircuiti che mi fanno morire. Quindi apprendere ieri che dietro già dovevo arrivare il che dietro questa identità fake, falsa, su cui si era astrologato, della prova provata, capito, delle echo chambers, le camere dei tamburi che risuonano nell'oscurità sui social, messi in piedi da occulte centrali per orientare il consenso e l'adesione politica contro il governo Renzi, si celasse Titti Brunetta, cioè la moglie di Renato Brunetta, perché insieme da una parte uno spaccato di questa vita di famiglia, perché i due non se lo sono detti, della moglie Brunetta che tra sé dall'alto guarda la sua situazione di famiglia e dice: Arena, adesso ti faccio vedere io come si fa a far male all'avversario. Dall'altra il giornalismo che perde la testa nelle sue costruzioni oramai, eccetera eccetera, il tutto ridicolizzato nell'espressione di più paradossi che si accartoccia in una risata generale, se posso dire, è molto amara, perché ci dà l'idea del fatto che si è persa la misura, ma da molti punti di vista. Oggi Philippe Davero, anche lui un grande, fa un'intervista al Fatto Quotidiano, dice: c'è ormai un clima da osteria in questo referendum, ormai è diventata una burletta, secondo me, questa campagna elettorale, come tutte, cioè in cui mi ha sorpreso anche l'Economist, comunque, perché adesso, al di là di tutto, il modo in cui è scritto l'articolo dell'Economist, l'Economist, per chi non lo sapesse, ha fatto un articolo secchissimo in cui dice: meglio che vinca il no e che Renzi vada a casa, c'è scritto tecnico. Esatto, sì. E mi ha molto colpito perché è scritto, se posso dire le cose come stanno, cioè sembra veramente un comunicato ufficiale del no. Per essere l'Economist mi sono un po' grattato la testa, cioè mi ha colpito il modo in cui è scritto. Non lo so, facciamo noi un giornale, ci occupiamo di un referendum in Belgio. Ma noi a quel punto faremo un pezzo di analisi. Io non è un'analisi, proprio è una presa di posizione, se votassero. Non so come devo dirti, però per carità di Dio. Però possiamo dare notizia: all'Economist non votano se sono appunto. Però la vicenda di Titti Brunetta è fantastica, mi dispiace. Allora, Fabio ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno Alessandro e buongiorno Oscar. Ecco. Sì. Io chiamo sulla vicenda, insomma, sono un dipendente pubblico del Comune di Roma e chiamavo, insomma, sulla fatto dell'aumento contrattuale che sarebbe legato a un possibile acquisto, diciamo, del voto al SIA referendum. Io non sono assolutamente d'accordo, dico semplicemente che è un aumento che è legittimo, necessario, perché sono oltre 7 anni, diciamo, appunto, di blocco contrattuale. E quindi credo ci debba essere. E per il resto, insomma, appunto, non credo proprio che siano legati i due fattori, anche perché la cosa divertente è che poi sicuramente su questo eventuale provvedimento, che poi vedremo se sarà reale o meno, si schiereranno sicuramente tutti coloro che oggi sono proprio per il fronte del no. Ah, per carità, sì. Che sono coloro, Oscar lo saprà meglio di me, che in questi 10 anni, 15 anni hanno ridotto in realtà il paese così e hanno bloccato gli stipendi dei dipendenti pubblici e hanno ridotto i diritti di tutti i cittadini. E quindi Fabio dice finalmente una decisione che alla fine arriva, che era attesa da anni, non la si può legare. Fattualmente Vincenzo ha ragione. La coincidenza casuale è che poi arrivino in realtà negli ultimi giorni pre-voto, ma questa è una coincidenza casuale. Andiamo a Pescara invece, poi andiamo da Vincenzo da Roma. Ma Pescara, Antonio, buongiorno Antonio. Buongiorno a voi, vi ascolto tutti mattina e siete fantastici. Però due piccole cose, sì, se mi posso permettere. Al signor Giannino, che non mi piace quella sua ironia un pochino graffiante nei confronti di Renzi e del governo Renzi, uno. E secondo, io sono un agente di commercio e in questi 7 anni ho sofferto veramente la crisi in una maniera bestiale. E io non voglio, che i dipendenti pubblici si lamentino e non hanno perso in questi 7 anni un solo posto di lavoro, penso che anche 80 euro, 50 euro, le cose vadano abbastanza bene così. Ma chiaro, questo, Antonio, la questione è sempre quella, cioè dire i dipendenti pubblici almeno hanno tutelato il posto di lavoro. E Antonio, e questo appunto, i dipendenti pubblici dovrebbero sapere e capire che quando tutti gli altri lavoratori privati dicono voi ci avete una garanzia che noi ci sogniamo col binocolo, è un fatto vero, cioè, hanno ragione i lavoratori privati a sottolinearlo in questi anni in cui sono andati a casa in centinaia e centinaia di migliaia dei privati. Naturalmente quelli pubblici dicono sì, però in realtà poi a noi ci hanno bloccato per 7 anni gli aumenti contrattuali, e il privato ti reagirebbe dicendo sì, io il contratto non ce l'ho più perché mi hanno licenziato, quindi è una gara a chi sta peggio. Però io capisco e ringrazio il nostro ascoltatore che ha ricordato l'argomento vero che porta i lavoratori privati a dire pubblici, e però non lamentatevi. Quanto all'ironia sul governo Renzi, prendo atto, l'ironia si può fare su tutto ma non su quello. No, no, vabbè, ma è chiaro che si può fare su tutto, vabbè, ma va bene così, dai. Vincenzo, eccoci da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, anch'io mi unisco all'ascoltatore di prima, perché è un vero insulto sentire parlare i dipendenti pubblici che si lamentano quando i nostri soldi, noi veniamo defraudati di quello che produciamo per pagare lo stipendio ai dipendenti pubblici. In una situazione di crisi come questa, se loro non fossero nel mercato degli incompetenti, ma dei competenti, cioè quelli che competono nel libero mercato per sopravvivere, farebbero come ha fatto Mondadori e Feltrinelli, che si sono tagliati lo stipendio del 20%, non aumento di stipendio. Sì. Per sopravvivere un'azienda nel libero mercato taglia i propri costi, di cose, personale, vabbè, qualsiasi genere. È chiaro che qui però, Vincenzo, si rischia sempre, Oscar, di fare questa guerra tra poveri, io la dico in maniera... Ma è brutto così, è brutto. Però, però insomma, Vincenzo, capiamo la questione. Questo è uno dei motivi per cui, tra l'altro, io sono convinto che dietro lo Stato ci mette sempre uno contro gli altri, come sulla questione delle tasse. E in prospettiva, una delle critiche che facevo al Jobs Act, cioè quello di continuare a distinguere gli istituti del mondo del lavoro dipendente pubblico e privato, ecco, queste sono proprio le prove per cui bisognerebbe invece convergere verso modelli unificati. E questo sì. Allora, però, noi dobbiamo parlare un po', si parla sempre di referendum sullo sfondo, cioè ci sono tanti ascoltatori, ma insomma torna anche uno spettacolo, tra l'altro, a proposito di spettacolo, domenica al Manzoni anche noi, caro Oscar, parleremo di referendum, domenica venite tutti al Teatro Manzoni, tu sei pronto? Io parlerò serissimamente. Ma nessuna ironia. Dirai cosa voti? No. Ce la par condicio. No, se dici no sembra che hai risposto che voti no, hai detto che voti no. No, ho detto no. Sì. Sì, hai detto che voti sì. Ah, vedi? No. Par condicio. Ah, sì. No, sì, no. Allora, ma torna a teatro anche... Partito del Bo, invece che sì. Partito no. del Bo. E infatti Enrico Bertolino ha chiamato il suo spettacolo di Instant Theater. Ci piace così? Perché Bo. Perché Enrico, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno a voi. Buongiorno a voi. Perché qua sì. Non si può dire né sì né no. Se uno dice no, sì, ma è sempre più vero. Noi ne abbiamo già fatto una di giro al Brancaccio a Roma a ottobre. Sì. C'era già abbastanza atmosfera. Adesso c'è proprio il Partito del Bo è cresciuto a dismisura. Sì, dici così, è cresciuto a dismisura. Allora, il 28 novembre, che è lunedì, Sala Umberto di Roma alle 21. Infatti non diamo mai un bersaglio fisso, cambiamo sempre teatro per evitare di essere cercati, come fanno i guerriglieri. Io siamo i Vietcong del teatro, cioè vai dentro in un posto, fai una cosa, poi scappi. Ma si è capito la gente, ma questa campagna elettorale, ma come la vive la gente secondo te con questi toni che si alzano? I toni alti sono voluti perché poi si sa che quando non riesci a puntare sulle argomentazioni punti sui contenitori. E il tono alto è per farci quello che si fa sentire di più, di solito è quello più agitato. E ho notato che però poi dopo cominciano anche a fare le vecchie campagne elettorali, quelle ancora dove si insultavano, uno dice la scrofa, quell'altro, e ancora spostano sempre più il tiro sulle persone e meno sul contenuto. Io invece farò lo spettacolo spiegando la Costituzione, partendo dal codice di Hammurabi. Perché la gente deve capire che ci sono anche le costituzioni, cioè che il problema costituzionale è che ci sono 47 articoli sull'argomento, è 47 il morto che parla, poi cominciano a spaventarsi, no? Le persone anche cominciano ad essere scaramantici. Ho chiesto quanti sono gli articoli della Costituzione in teatro, vedo sono 139, mi ha detto non lo sa. Come mai lo sa? Perché sono uno meno dei caratteri di Twitter. Beh, non è male questo, è facile, facile da ricordare effettivamente. Sono figure così, insomma, per cui noi andiamo a cercare questo e poi la cosa finale la facciamo cantare con, al pubblico anche con le canzoni dei Pooh. Cantare, cantare, fantastico. E ci sarà ovviamente un esponente del sì e del no, così almeno quello dovrebbe, ecco, noi li stiamo cercando, adesso ne abbiamo già quasi semi confermati, però sono costretti tutti, per esempio la Meloni voleva venire, solo che a quell'ora lì deve allattare, è una cosa bellissima secondo me. E può allattare a teatro, perché non si e può, sarebbe uno spettacolo meraviglioso, una Madonna di destra che allatta in con la platea che a quel punto si commuove, perché poi si commuove davanti a questi spettacoli, no? Certo. Comunque volevo ricordare Enrico Bertolino, perché sì, boh, perché boh, lunedì 28 sì, novembre. Nel dubbio votate boh, tanto poi alla fine quando uno vince poi dopo sali sul carro al volo. Che è tipico sport italiano. Che è uno sport italico. Ah, attenzione, tra l'altro, a proposito di sport, Enrico Bertolino, grande interista. No, io non ma è feroce stamattina, no, questo ieri sera stavo guardando la partita di curling. ecco. Vabbè, io ero al cinema, allora no, ho una mia teoria su questa cosa. 5 sì. gol da una squadra israeliana, c'è di mezzo il Mossad. C'è di mezzo il Mossad, andate e ritorno, effettivamente. Sottolineiamo che lo dice ironicamente, perché sennò qualche interista ci crede. Davvero. Enrico Bertolino, grazie ovviamente, caro. Andate Oscar a vedere il suo spettacolo. Prima venite da noi, dai, al Manzoni la sera prima. E, no, perché così poi capirete e andate a vedere uno spettacolo vero. No, no. Promettiamo scintille al Teatro Manzoni domenica sera. Scintille. Scintille, dai. Intanto oggi pomeriggio c'è Oscar, domani c'è Oscar e via. Domenica sera c'è Oscar. Domenica sera c'è Oscar. Brandine, c'è Oscar, brandine. Ecco. Va bene. Ciao, alla prossima.